Per noi manina se la lasci riscaldar cercare che giova al buio non si trova ma per fortuna Thank you. agire confusa al valutare.

del buon dì. D'un gaio rosignuolo la voce mi svegliò. Mi piace come canti. Oh, signor Fritz, canta così, come mi viene dal cuore. Quei fiori son per me, certo. Le ciliegie, ciliegie, e son di già mature. Ha nella porpora il vivo colore, son dolci e tenere. Di primavera somiglia un fiore, fresche scintillano, vibrino ancora, son tutte rovide. Ma è da quell'albero che sull'aurora vi spiglia il passero. Da quell'albero. Quell'incanto del risveglio di fiore, perché sei tu che mai